Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ci sono il mondiale, c'è la Serie A, le coppe, le supercoppe, ma fuori da questa specie di Olimpo, che a volte dà anche qualche discreto dolore, ci sono milioni di appassionati che ogni settimana si danno appuntamento sui campi di calcetto di mezza Italia e che darebbero chissà cosa per poter rivedere le azioni più spettacolari, magari postarle e commentarle su internet. Da questa intuizione è nata l'idea di portare sui campi di calcetto le tecnologie del calcio professionista. Ce la racconta Fosca Sanviti, che con suo fratello ha fondato una startup che ha proprio questo obiettivo. L'ha intervistata per noi Federico Pedrocchi. Sentiamo. La nostra startup si chiama PostGol e è basata su un concetto molto semplice. Noi registriamo le partite di calcetto amatoriale in HD posizionando delle telecamere fisse dietro alle porte e che grazie a un software crea un montaggio automatico della partita con un algoritmo che abbiamo brevettato in 146 paesi. Quindi i ragazzi entro 24 ore possono rivedere l'integralità della loro partita come un film sul nostro sito postgol.com. Quindi il sistema è fisso su un determinato campo e quindi il centro sportivo decide di prendersi questa attrezzatura. Sì, esattamente. E poi questo sistema segue il gioco e riesce a individuare dov'è sempre la palla? Sì, le telecamere sono fisse, sono posizionate in modo da riprendere l'integralità del campetto e sono in grado di capire dove si svolge l'azione. Quindi il software crea un montaggio selezionando, filtrando le immagini più pertinenti dove c'è la palla e poi le assembla creando un montaggio della partita unico che puoi vedere tranquillamente come un film. Questo montaggio è sui vostri server ed è a disposizione appunto delle due squadre che hanno fatto la partita. Possono fare che cosa? Rivederselo tutto, selezionare alcune cose? Sì, dunque i giocatori hanno accesso alla partita grazie alla password che hanno ottenuto sul campetto quando hanno attivato la registrazione. Da lì vedono l'integralità della partita e possono anche ritagliare le loro azioni più spettacolari con un semplicissimo tool che abbiamo sviluppato sul nostro sito, creare quindi degli highlight, dei mini video di 15 secondi che condividono su Facebook, su YouTube, su Twitter, su PostGol, sui vari social network. Quindi esattamente come i campionati del mondo in cui rivediamo 20 volte i gol e le azioni più spettacolari. Dove già avete messo in campo, il caso di dire, questa attrezzatura? Ma siamo presenti nei centri più prestigiosi di Milano, abbiamo molte richieste a Torino per la scuola Juve e anche a Roma. Il nostro target è quello di aprire 20 servizi PostGol entro dicembre 2015. Era Fosca Sanviti di PostGol, ma ora cambiamo argomento. Qualche settimana fa abbiamo parlato del progetto ELIMED, dedicato a sperimentare soluzioni tecniche ed economiche che, facendo leva sui fondi sociali europei, consentano di riqualificare dal punto di vista energetico l'edilizia a basso reddito, cioè i cui occupati sono poveri o a rischio povertà energetica, e le soluzioni a costo zero per gli abitanti sono venute fuori. Ora la coordinatrice del progetto, Anna Moreno dell'Enea. Buonasera Moreno. Buonasera, grazie. Ecco, ha lanciato una petizione che riguarda proprio il progetto ELIMED. Moreno, perché? Perché mentre da un lato abbiamo visto risultati estremamente positivi di questi interventi, dall'altro ci rendiamo conto che ci sarebbero anche finanziamenti per farlo, quindi sia i fondi non utilizzati della programmazione 2007-2013 e sia quelli futuri 2014-2020. E quindi oggetto della petizione è fare in modo che i politici prendano le misure giuste per poter sfruttare questi fondi che altrimenti restano in Europa. Ecco, rischiamo anche di perderli, soprattutto quelli, diciamo, della programmazione fino al 2013, abbiamo ancora poco tempo per spenderli e questo è un modo in cui si possono spendere. Ecco, di che cifra stiamo parlando più o meno? Ma si parla anche di diverse centinaia di milioni di euro. Mentre per riqualificare per esempio un'abitazione a fretta maggiore abbiamo speso 15.000 euro, quindi significa diverse migliaia di famiglie che dall'anno prossimo potrebbero godere di una migliore performance energetica. Grazie, grazie Anna Moreno, in bocca al lupo. Troverete poi sulla pagina internet di Smart City il link alla petizione da firmare. Dateci una mano, a domani.